And when you're right. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti. La stavamo aspettando questa puntata, la stavate aspettando questa puntata, perché insomma ogni tanto scrivevate: ma non dovevate fare la puntata, ma non dovevate farla, ma non dovevate farla. E alla fine la puntata è arrivata ed è la puntata che ha proposto e anche lavorato, diciamo così, Roberto Tomaiuolo. Ciao Roberto. Ciao Simone, ciao ragazzi. Sì, è stato un parto un po' complicato e vi dico che ho rischiato anche stasera di non esserci, però ce l'abbiamo fatta, dai, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, d'altronde l'importante è che siamo qui a farla, poi dopo se si rimandano le cose, insomma, lo sapete, non è questo il nostro impegno primario, anzi non lo è proprio, soprattutto in questi periodi. Ma salutiamo anche Carlo Sant'Agostino. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Questa sera una serata di lacrime. Lacrime virili. Lacrime virili, esatto. Lacrime virili. Assolutamente d'accordo. Di ricordi, tanti ricordi stasera. Quanti tanti ricordi. Davide Gatti. Buonasera. Pensavo stessi dicendo che stasera era una serata di lacrime per le botte, ma invece no, è per anche. È lacrime per una cosa che sta per succedere al cinema, che non avremmo voluto che succedesse. No, ecco, esatto. Ma purtroppo, dato che siamo in tema. Però prima di lasciare la parola a Roberto, mi permetto di prendere un attimo un minuto suggerendovi, ragazzi, di andare su Spreaker.com e cercare Runtime Radio, perché lì troverete tutti i nostri podcast. Tra l'altro c'è un po' un nuovo podcast che si intitola Te la costruisco io la web radio, fatto da me medesimo, perché alcuni utenti, in particolare il nostro carissimo amico Morgan, mi ha chiesto tempo fa, dice: ma perché non fai una puntata, cioè una trasmissione che parla su come si costruisce una web radio? E quindi questo sarà un podcast episodico che vi parleremo, vi racconteremo su come noi abbiamo fatto questo tipo di cosa, quindi insomma con la nostra esperienza. In più stanno per arrivare nuovi podcast e ci sono ovviamente quelli storici, vecchi. Tra l'altro, Carlo Sant'Agostino, ti porto i complimenti, sì. Vi porto i complimenti a anche te e a Roberto, chiaramente. Anche a Davide. Anche a Davide, va bene, a tutto il team di archeologia informatica, proprio per la scorsa puntata su microcomputer. Che viene considerata una puntata da antologia, addirittura, insomma, parole importanti che insomma fanno sempre piacere. E poi Davide Gatti, che oramai, ragazzi, battiamo le mani, ha superato i 10.000 iscritti al suo canale YouTube Survival Hacking. Ormai Davide è diventato andato. Un vips. Sì, oramai non ci caga. Dove sei? 12.000, 13.000, dove sei arrivato? Sì, sì. 12.007. Perché lui va a 1.000 al giorno, lui va. Si vergogna a dirlo ormai. Sì, esatto, secondo me lui Silver Button entro Natale, secondo me, ve lo dico subito. Speriamo, dai. No, poi dopo tutti a cena a casa di Davide, chiaramente. Beh, certo. Ma ci mancherebbe altro proprio. Andiamo anche in un sushi, vi offro sushi di lusso. Di lusso. Va Va bene, va bene ragazzi, questo è quanto, e ricordatevi ovviamente di andare su www.rantemiradio.it, ma sicuramente già lo sapete perché ci state ascoltando, e cliccate sul pulsante anch'io e fate, se volete, date il vostro contributo seguendo le istruzioni, se volete chiaramente, perché questa è la nostra struttura, e se volete intervenire anche perché ci state ascoltando ma non sapete come intervenire, andate su telegram.me/dirette runtime e potete tranquillamente scriverci. E quindi io adesso posso tranquillamente passare, ma già vedo fioccare immagini, cose qua, già abbiamo perso il controllo della situazione. Salutiamo Vincent Valentine, ovviamente Davide, Michela, e il Vincenzo, amico Vincenzo, che dice di essere la spina nel fianco del buon Davide, non so in che modo e quanto deve essere grossa sta spina, soprattutto perché quella è la cosa più importante. Basta che non sia la 220, Davide. Esatto. Sì, basta che non sia la spina da qualche altra parte. Esatto. Poi salutiamo anche Andrea, Gianluca, vedo insomma che sta puntata non l'aspettava nessuno, insomma, diciamo, da questo punto di vista. Addirittura un nuovo ingresso, attenzione, c'è Pietrone. Non so perché, ma qualcosa mi dice che forse sappiamo chi è Pietrone. 70, va bene, comunque dai. Roberto, prego, prego Roberto. Pietrone, sì. Eccoci qua, allora, abbiamo preparato qualcosa, leggeremo qualcosa, ma è anche forse troppo lungo, però mi interesserebbe di più saltare insomma con voi nei nostri ricordi, che è la cosa più divertente, più bella che si può fare, come si fa insomma quando si è a tavola fra amici, come abbiamo fatto mille volte ricordando cartoni animati, cose, o anche i mitici film di Bud Spencer e Terence Hill. Ma partiamo. Non è possibile ricordare la nostra adolescenza, di noi quarantenni, cinquantenni, senza parlare di Bud Spencer e Terence Hill, che al secolo sono Carlo Pedersoli, era purtroppo, e Mario Girotti, protagonisti indiscussi della commedia d'azione degli anni 70 e 80, con i loro film pieni di energia, sempre molto umoristici, con giochi di parole divertentissimi, come possiamo dimenticare il famosissimo Ruspa Galina Ruspa o Mi appecorono alla bellezza, un sacco di potenti sganassoni e l'eterna lotta fra il bene e il male. Noi parliamo di un duo che ha avuto un successo clamoroso a livello internazionale. E so che è difficile pensarlo per noi italiani, ma in diversi casi hanno avuto un successo all'estero, in alcune nazioni, tra cui ad esempio la Germania, anche superiore a quello che hanno avuto in Italia. E hanno fatto insieme 16 film dove erano protagonisti, e in diversi casi questi film, visto il grande successo di botteghino che hanno avuto dei sequel. Vorrei fare qualche brevissimo cenno biografico dei nostri due protagonisti della serata per inquadrarli meglio. Quindi Bud Spencer, che abbiamo detto nato Carlo Pedersoli, è nato appunto a Napoli nel 1929 ed è purtroppo scomparso ormai da qualche anno nel 2016. Bud è stato un uomo enormemente, e non uso questa parola a caso, eclettico. Ovviamente oggi è noto soprattutto come attore, ma egli è stato un nuotatore di successo, il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero. Ha partecipato ai Giochi del Mediterraneo e alle Olimpiadi di Melbourne, ma è stato anche pallanuotista, pugile, rugbista, praticante di lotta greco-romana. Nel tempo che non so dove ha trovato, si è laureato in giurisprudenza. Parlava 6 lingue correntemente, è stato pilota brevettato di aeroplano ed elicottero, 2000 ore di volo in aeroplano, 500 in elicottero. Ha lanciato una linea di jeans. Sì, ha lanciato la linea di jeans e ha fondato la compagnia aerea Mistral Airlines, che poi ha venduto a Poste Italiane. E si dilettava anche come inventore. Egli ha depositato un progetto per un bastone da passeggio con tavolino e sedia inclusi, un topolino giocattolo elettronico e uno spazzolino da denti col dentifricio incluso. Mazza, questo non lo sapevo. E nel tempo libero, appunto, fra tutte queste simpatiche cose, ha composto ed interpretato molte canzoni. Da dove deriva il nome Bud Spencer? Bud deriva dalla birra Budweiser, mentre Spencer deriva da uno dei suoi attori preferiti, che era Spencer Tracy. Quindi possiamo vedere come, noi lo vediamo come il grosso un po' stupidone che tira sberloni, ma probabilmente nella, anzi sicuramente nella sua vita è stato esattamente l'opposto di quello che potremmo pensare in tutti i campi dove, dove si è applicato. Terence Hill invece, scusa, Mario Girotti. Ti interrompo solo una cosa per fare una domanda a Carlo, che sicuramente lo sa. Giustamente Bud Spencer, che è stato un nuotatore professionista, come ha detto giustamente, sì, sì, la so già anche cosa su mi chiedere. In quale polisportiva ha gareggiato per anni e anni la sua carriera sportiva? Lazio. Okay, bravi. La sanno tutti, SS Lazio Nuoto. Perché la società sportiva Lazio, spiegalo, sì, Simone, sì, perché è una delle più grosse Lazio polisportive realtà, d'Europa, giustamente. Esattamente, ha dentro al nuoto, tutto, 200 tutto sport, sì, karate, qualsiasi cosa. Tutto, cioè, tutto dentro. Adesso tutto, ultimamente è anche roba così, anche molto inventata, diciamo, però insomma, nuovi sport che nascono. Prego, Carlo. Sì, adesso Roberto, qui adesso non l'hanno ancora. Roberto. L'ho fatta molto breve. Robarlo. Lui in realtà è stato anche in Sud America, ha fatto diversi lavori. È quasi incredibile pensare che una sola persona possa aver fatto tutte queste cose, insomma. Veniamo a Terence Hill, Mario Girotti. Almeno non si è annoiato, voglio dire, questo sicuramente. No, vabbè, quello no di sicuro. Il suo motto era in napoletano fottetevene, che probabilmente soprattutto in questi periodi così pesanti non è tanto sbagliato, dovremmo farlo. Terence Hill, arriviamo a Terence Hill poverino. Mario Girotti è nato a Venezia nel 1939, fortunatamente è ancora vivo. Simone mi fa notare che però biascica, sì, è vero. Egli ha il papà italiano. Come già c'è anche lui, ce l'ho fatto presente vorrebbe, io. Anche lui ha avuto i suoi bambini. Ah, eri tu, Davide. Poi, tra l'altro, sì, sì. Sapete quei drammi? Sì, ne parliamo velocemente, insomma, anche perché vogliamo fare una puntata un attimo allegra. Esatto. Anche sì, proprio perché. Quindi papà italiano, mamma tedesca, ha passato parte dell'infanzia da piccolino in Germania durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. Lui ha fatto molte meno cose di Bud, è stato essenzialmente un interprete di fotoromanzi ed attore. Ha cominciato la sua carriera molto giovane perché fu notato durante un incontro di nuoto dal regista, nuoto di nuovo, quindi anche qui appare il nuoto, dal regista Dino Risi, che lo scritturerà in una parte del film Vacanze con il gangster nel 1951. Mario Girotti abbandonerà lo studio di lettere che stava facendo all'università al terzo anno, perché si convinse che insomma il suo futuro sarebbe stato nella cinematografia, e girerà una parte nel Gattopardo di Luchino Visconti. Il nome Terence Hill in questo caso deriva Terence da Terenzio, che è un attore latino che gli apprezzava. Il cognome invece è Hill, che è il cognome della moglie americana. Parleremo del sodalizio ovviamente con Bud più avanti, ma voglio ricordare giusto brevemente una parte drammatica della sua vita che ha anche causato un lungo periodo di depressione, pausa nella sua carriera, che fu la tragica morte del figlio 17enne Ross in un incidente stradale. Questo è purtroppo tra l'altro venuto neopatentato. Quindi. E adesso parliamo appunto. Sì, appunto, poverino. Adesso parliamo dell'inizio. I due, la cosa un po' buffa è che recitarono nella stessa pellicola, questo nel 1959, dove però non si sono mai incontrati perché hanno girato scene separate in momenti separati. Quindi, sebbene appaiono nello stesso film, che è Annibale, di Carlo Ludovico Bragaglia e Edgard G. Ulmer, chiunque essi siano, non si sono mai incontrati. Si incontreranno per la prima volta quasi 8 anni dopo, a Almeria in Spagna, sul set del film Dio perdona, io no. Lì invece appunto si incontreranno e si conosceranno. In realtà Carlo Pedersoli non voleva fare l'attore a tempo pieno. E il regista Giuseppe Colizzi, che fu uno dei primi registi che lo impiegò appunto, fu inizialmente abbastanza diffidente sulle possibilità di Pedersoli, perché egli non parlava all'epoca inglese, non sapeva andare a cavallo, e per il primo ingaggio gli chiese 4 milioni di lire, perché questa è una cosa abbastanza famosa che racconta spesso lui nelle varie interviste, aveva bisogno di 4 milioni per pagare due cambiali che aveva in scadenza. E quindi Colizzi non lo voleva, però dopo aver fatto tutta una serie di casting che non lo soddisfarono, alla fine tornò su Bud Spencer, corrispondente a quelle due cambiali che doveva pagare. Invece Girotti, anche qui per un caso, come quasi tutte le cose della vita, venne scritturato solo dopo, perché il protagonista del film, che era Peter Martell, ebbe un infortunio a seguito di un litigio con la fidanzata. Adesso io non sono riuscito a sapere esattamente che tipo di infortunio ha avuto Martell con la fidanzata, però gli era rotto in testa qualcosa, diciamo così. Quindi Colizzi dovette trovare un rimpiazzo d'emergenza e su consiglio di suo fratello alla fine prese Girotti. Quindi vediamo, tutte cose molto casuali, non nulla di organizzato o in maniera strategica. E la prima scena che dovettero girare fu una scazzottata, non ci sorprende questo, e Bud Spencer ideò la gag che poi diventerà celebre in moltissimi dei loro film, il famoso pugnone a martello dall'alto sulla testa del malcapitato, che soprannominarono Piccione. A questo punto fu suggerito ai due attori di cambiare i nomi, perché l'idea era di sfondare a livello internazionale, e abbiamo visto in che modo Bud Spencer appunto diventò Bud Spencer, e Girotti invece diventò Terence Hill. Voglio dire che in molti film, in tutti i film che girano insieme, entrambi gli attori sono doppiati. Sono doppiati da Glauco Onorato Bud Spencer e Pino Locchi invece Terence Hill. Si può discutere, sai, dell'opportunità di doppiarli o no, però io credo che Terence Hill non aveva una bellissima voce ed era abbastanza poco diciamo cinematografico, non so se si può dire così. Bud Spencer ha fatto anche dei film con la sua voce, però era molto localizzato, con un po' di accento napoletano soprattutto all'inizio. Io credo che questi due doppiatori professionisti abbiano contribuito, soprattutto Glauco Onorato con la bellissima voce che dà Bud Spencer, al loro successo, sinceramente, o almeno questa è la mia indubbiamente, anche perché lui aveva questa voce un po' particolare, no? Un po' comunque anche la mia sì. La prima volta che, se non sbaglio, la prima volta che non è stato doppiato, esatto. Vi stavo dicendo che la prima volta, se non sbaglio, quindi, allora, siamo doppiato, ma parlò con la sua voce originale, fu nei film di Piedone. Sì, ma poi fece anche una serie, infatti, televisiva, tutti mi ricordo quando uscirono i film di Piedone, dice, ma non è la sua voce, invece era la sua originale, perché prima era doppiato, esatto. Piedone era quello, il poliziotto, la serie televisiva. Ok, allora era una serie TV quella di Piedone, se non ricordo male. Allora, scusate un secondo, ragazzi. Sì, no. Che scusate un secondo, ragazzi, metto un brano, perché questo software si sta incartando e ci sta incartando anche a noi. Quindi adesso cerchiamo un attimo di risolvere il problema. Ho chiuso il loro canale, che probabilmente loro mi stanno sentendo, quindi se mi state sentendo, ragazzi, passate su Skype, perché questo sistema non può essere, insomma, assolutamente utilizzato. Abbiate pazienza un secondo, metto un brano a caso e ritorniamo, abbiate pazienza soltanto un secondo che torniamo subito da voi, insomma. E ritorniamo, carissimi amici di Runtime Radio, qui ovviamente sulla vostra radio preferita. Come avete capito, stavamo sperimentando un nuovo software, che stava creando diversi problemi sia allo streaming, tra l'altro, che si era completamente desincronizzato. Peccato, perché quel sistema è veramente di altissima qualità dal punto di vista dell'audio, però vabbè, in qualche maniera poi troveremo, insomma, altre soluzioni. Torniamo, ci dovrebbero essere tutti, Roberto. Ci siamo tutti. Ci siamo. Davide e Carlo, perfetto. Quindi Carlo, sì, Davide, dai, stasera stiamo a posto. Puoi riprendere il discorso da non so dove ci eravamo interrotti, però vabbè. Poi Roberto, vabbè. Riparto io. Dunque, stiamo parlando dell'inizio della carriera dei nostri eroi, e il primo successo ebbe un enorme successo, il primo film ebbe un enorme successo, e quindi Colizzi si rese conto che aveva scoperto una coppia da un potenziale davvero grande, e quindi fece altri due nuovi film. Nel 1968 I Quattro dell'Ave Maria, ed è il primo film dove si inizia a inserire delle parti ironiche, che poi man mano con l'andare avanti degli anni diventeranno sempre più consistenti, fino a diventare, se vogliamo, la vera ragion d'essere di questi film. In questo la coppia non è ancora protagonista, ma ha un ruolo sempre più centrale. E I Quattro dell'Ave Maria otterrà un successo ancora più grande del primo film. Nel 1969 arriviamo alla Collina degli Stivali, e di nuovo i due ebbero, il film ebbero un grande successo, e si comincerà a parlare di Bud Spencer e Terence Hill anche a livello mondiale, quindi a livello internazionale, se vogliamo. E quindi questi sono gli inizi, e adesso chiederei a Simone, sì, di partire con Trinità, perché dopo di questo appunto verrà Trinità, che discuteremo subito dopo. Ok, mentre che lo cerco, voi parlate, cioè commentate. Sì, volevo dire solo due stupidate così aggiuntive, proprio una cosa che non è molto conosciuta. Bud Spencer, Carlo Pedersoli, che è il mio omonimo Carlo, tutti lo conoscono come di origini napoletane, perché lui è nato a Napoli e poi è andato a abitare con la famiglia a Roma e poi in Sud America. Ma le origini dei suoi genitori, soprattutto della mamma, è bresciana, è originaria di Chiari, che è un paese che sta qua a 2 chilometri da dove abito io, praticamente vicino. Io abito a Rovato, Chiari è il paese di fianco attaccato, ed è in provincia di Brescia. E anche il padre, Alessandro Pedersoli, la mamma si chiamava Rosa Facchetti, proprio un cognome bresciano, e Pedersoli anche è un cognome bresciano, perché Alessandro Pedersoli, il padre, pur napoletano, era di origine comunque bresciane. Quindi le origini di Bud Spencer sono della provincia di Brescia, poi dopo è nato a Napoli, poi eccetera. Beh, sì, poi lui l'accento napoletano se l'è portato dietro per sempre. Ma lui è stato anche molto napoletano dentro. Sai che è andato a scuola con Luciano De Crescenzo? Sì, Rione Sanità. Esatto. Dov'è che diceva? Sì, Rione Sanità. Sì, poi loro, diciamo, nello stesso palazzo, anche se abitavano nello altri stesso tempi. Palazzo. Diciamo se vogliamo aprire anche Rione Santa Lucia. Se vogliamo anche aprire dei piccoli ricordi, diciamo che io quando ero ragazzino, vabbè, a parte Terence Hill, che comunque secondo me deve la vita alla faccia che c'ha, perché secondo me la faccia, più che il viso, proprio la faccia che c'ha Terence Hill, secondo me è qualcosa di clamoroso, ed era da fotoromanzo, in effetti, no? Poi quando lui faceva quei film, faccia da sberle, esatto, diremmo. Esatto, bravo. E quando lui faceva quei film era proprio la faccia da schiaffi, cioè proprio incredibile. Sì, vero, ed era bravissimo in questo, no? E oltre a essere, diciamo, dotato naturalmente. E quando io ero bambino e c'erano i film di Terence Hill e Bud Spencer, per me erano film americani. Cioè non erano film italiani. Sì, è vero, per molti di noi erano americani, assolutamente, anche perché imitavano chiaramente, sia vero, spaghetti western all'inizio soprattutto era un genere che veniva fatto sia da italiani che da americani, e poi i film degli anni 70 anche a me sembravano americani, cioè prima di l'ho scoperto da grande, tra virgolette, sì, anche, cioè, il fatto che fosse, anche il fatto che fossero doppiati, diciamo, questo poi incrementava un po' questo mito, e poi queste produzioni miste, quindi ma era assolutamente voluto anche il cambio di nome, che si erano dati i nomi americani, anche il regista eccetera erano tutti italiani, ma si davano tutti nomi strani americani. Finto l'intenzione da subito era di essere internazionali e di vendere in tutto il mondo, cosa che gli è riuscita perfettamente. A proposito di facce, metto una foto di Bud Spencer da giovanissimo, quando era nella nazionale di nuoto. A me ricorda qualcuno, però non vorrei dire chi. Mi ricorda in questa foto? Oddio. Qua Bud Spencer da giovane, l'ho messo dentro dirette, vediamo un po', fammi andare a vedere. Ma così per ridere, non so chi assomiglia, Roberto Bertoni, non lo so. Mi ricorda il capitano Kirk, quello nuovo. Sì, vagamente, sì, quello nuovo. Sì, sì. Comunque, vabbè, noi lo riconosciamo, non lo riconosciamo, perché noi siamo abituati a vederlo con la barba, grasso, lì invece era magro e giovane, anche senza un bello barba. Maccione, diciamo, c'era anche un bello maccione tutto sommato. Poi mi ricollegavo a una cosa che ha detto prima Carlo, no? Che ha detto, intanto parte Luca, sotto con garbo, giustamente per introdurre il tema che vorrebbe, di cui vorrebbe parlare il buon Roberto. Allora, andate avanti, no, dobbiamo parlare noi, non è, vai vai. No, era giusto solo per ricordare che, insomma, Carlo ci ha fatto capire che i genitori sono di Brescia, la mamma era di Brescia, tutto per far dire che era del paese dove abita lui, non vorrei dire. Ma no, poi io ho la mamma napoletana e abito a Brescia, quindi sono anch'io, mi chiamo Carlo, sono grasso, ho la barba. E anche tu hai gareggiato nella Lazio? No, io sono stato azzurro di sci. Di sci, esatto, grande. Altro grande personaggio di cui forse parleremo anche. Insomma. Ah no, ne dovevo fare da puntata anche su di lui. Vai, cioè. Rob. Quindi, Trinità, successo enorme, grandioso, nasce grandioso. Nel 1970 da un'idea del direttore della fotografia, un tale E.B. Klucker, pseudonimo di Enzo Barboni. Eccolo. Eccolo qua, quindi anche qui si vede come volessero appunto suonare americani o comunque internazionali. Davide, mi dicono che parli in una pentola. Vabbè, ma questo microfono si vede che non è gradevole. Dai. Vabbè, mo te lo mando io un microfono, va, perché insomma, vai Roberto, scusa. Tranquillo, quindi costui, questo Klucker, o come cavolo si pronuncia, scrisse il copione di un nuovo film, appunto lo chiamavano Trinità, che era un western dai risvolti comici. In realtà anche qui i protagonisti inizialmente avrebbero dovuto essere due altri attori, ma per una serie di motivi, come al solito, ciò non fu possibile, e arrivarono Bud e Terence, e ebbero un successo per l'epoca clamoroso, un incasso di 3 miliardi, che all'epoca era molto, che portò alla realizzazione del sequel, continuavano a chiamarlo Trinità, che raggiunse 6 miliardi di introiti, che si posizionò al primo posto dei maggiori successi dell'anno, e quindi non è una cosa da poco, insomma. Anche se il primo è inarrivabile, ragazzi, cioè. Sono belli tutti, no me. no, ma assolutamente non volevo dire questo, però Trinità, io, sai, il primo e il secondo Trinità quasi li considero un unico film lungo, praticamente, perché spesso confondo anche le scene tra il primo e il secondo, non mi ricordo dove era venuta una scena piuttosto che l'altra, tra lo chiamavano Trinità e continuavano a chiamarlo Trinità, insomma, almeno questo, poi l'ho visti talmente tante volte, quindi. Beh, io proprio, se devo ricordare Bud Spencer e Terence Hill e Trinità, i film più belli, mi ricordo mia nonna, perché io li guardavo con mia nonna e mia nonna rideva. Mia nonna non era una che rideva tanto, che si divertiva a vedere le cose, però quando partivano gli sganassoni faceva ridere, non c'è. E poi secondo me molto è pure il sound, quello che oggi chiameremo il sound design, no? Dell'aspetto proprio strettamente cinematografico. Il suono secondo me ha fatto la metà di quello che era, insomma, sì. E quasi sempre erano delle assi di legno praticamente percosse o sbattute o tirate, sì, sì, all'epoca schiaffoni. Non c'erano i computer, roba del genere, si andava proprio a simulare i suoni con quello che c'era. Sì, sì, anche umoristi. Ancora, ancora in alcuni ambiti si utilizza il sistema artigianale, perché nonostante tutto viene considerato il sistema più creativo e anche il migliore ancora oggi, nonostante poi ovviamente c'è tutto poi una fase di sound processing che chiaramente la tecnologia ci mette a disposizione, e l'aspetto del sonorista nel cinema soprattutto negli anni 70 e 60 era un aspetto importante, e in Italia insomma abbiamo fatto anche un po' scuola, no, da questo punto di vista, e sti suoni delle scazzottate, ragazzi, erano, cioè, veramente quei fustoni del Dash anche volendo. Esatto, e comunque questo film qua è stato, c'è una scena in questo film, la scena più famosa che tutti conoscono, almeno ce ne sono tante di scene bellissime, però ce n'è una che io ogni volta che mi capita su YouTube, mentre ci, o in ogni momento in cui la vedo per un attimo, la devo vedere, ma per forno, l'avrò vista tipo un milione di volte, un milione di volte, sì. Il duello a schiaffoni al bar, quello che dice non c'è capito niente, te lo rifaccio vedere. Sì, sì, vabbè, ma la fagiolata, ragazzi, nel senso, ma in generale, però ecco, cioè, qui abbiamo un file audio di una scena che io quasi quasi farei sentire, anche se è un po' assurdo, no, perché tu dici vabbè, ma le dovresti vedere le scene, in realtà secondo me alcune cose rendono anche ma per quello che dicevi prima, che il suono è al 50%. Aspetta che ve la faccio sentire, perché purtroppo poi c'è un problema che giustamente provo in tempo reale a fare un lavoro di limiting, così almeno cerchiamo di alzare la potenza. Vado, Chi sei? Chi ti ha mandato? Emiliano non tradisce, gringo. Emiliano dice tutto, gringo. Sono un uomo della banda di Mescal. Il maggiore ci ha ingaggiati e ha promesso a Mescal, il mio capo, 20 dei suoi stalloni se riusciamo a cacciare dalla valle queste cornacchie. Capito? Era uno che non parlava, insomma. Per esempio. Mescal, quella con gli schiaffoni, la scena degli schiaffoni di Mescal è incredibile. Cioè. Che poi questo non l'ho mai picchiato. C'è quella, la scena del barbiere dopo, che alla fine è abbastanza simile come scena, insomma. E c'è, l'ho messa nei cosi, la mettiamo magari più avanti. Okay. Ce l'ho messa negli assi. E comunque, primo film, abbiamo detto, quindi Trinità. Poco nello stesso anno gireranno il film Il Corsaro Nero, in cui qui il protagonista sarà Terence Hill, mentre Bud Spencer farà una parte assai minore nel ruolo di cattivo. Quindi questi anni erano ancora un po' nebulosi, diciamo così. Invece credo che abbiamo anche questo asset. Nel 72 gireranno Più Forte Ragazzi, e qui vinceranno il premio Nastro d'Argento per la migliore colonna sonora, dovuta al mitico gruppo romano degli Oliver Onion, quindi Guido e Maurizio De Angelis, che poi diventeranno inseparabili dopo. Che diventeranno inseparabili, che anche essi hanno contribuito in maniera decisiva al successo di Bud Spencer e Terence Hill. Però io sto Più Forte Ragazzi non me lo ritrovo il file. Vediamo. Non ci dovrebbe stare, come non ce l'hai? Cerco tutto tanto. Vabbè, non importa, ne abbiamo altri 200, non è un problema. E lo stai facendo così, stai facendo. E una cosa che non molti sanno è che ci fu l'idea di fare un terzo Trinità, che avrebbe dovuto essere, e insistevano a chiamarlo Trinità, ma Bud e Terence decisero di non esagerare, insomma, con il numero di sequel, e in quel periodo esplorarono anche alcune cose che fecero individualmente. Per quanto riguarda Bud, questo ce l'abbiamo, egli reciterà in Anche gli angeli mangiano fagioli, che sei con Giuliano Gemma, con Giuliano Gemma, sì, perché infatti quello in realtà è quasi considerato un film di Bud Spencer e Terence Hill, solo che al posto di Terence Hill c'era Giuliano Gemma, però cambiava poco, diciamo, nella struttura, secondo me, almeno, perché era comunque basato sulla stessa struttura. Assolutamente, le strutture alla fine si ripeteranno tutte, lo vedremo poi per alcuni film sempre di Bud Spencer in modo anche estremo, e quindi è questo. Roll your wagon, let's go for a ride. Tell old Lola to get up inside. Feeling so good, the weather is fine. Roll your wagon and leave them behind. Down the street there was just gone through. Wine and whiskey, if only they knew. C'è anche da dire, secondo me, non so se si è d'accordo, è che per quanto certi meccanismi si ripeteranno a oltranza, era un meccanismo che funzionava talmente bene che in effetti era anche inutile andarlo a cambiare, no? Assolutamente. Cioè, alla fine sì. se faceva ridere perché tu andavi a vedere quei film perché sapevi che avresti trovato quel contesto, no? Quelle situazioni. E che ancora oggi io, ragazzi, a me se mica, io ve lo dico, cioè io su YouTube anche capita pam e sparo magari un film integrale, cioè se non me ne sì. No, poi quando inizi a vederli non se più, mi capitava così. Mentre giro i canali su qualche canale magari meno importante e c'è un film, mi fermo, si ferma lì. Ma vogliamo dire, io sono convinto che alcuni dei film di Bud Spencer e Terence Hill li avrò visti non so 30 volte probabilmente. Anch'io, sì, sicuro. Ad oltranza. Pensa che questo film qua, nel caso specifico, anche Gli angeli mangiano fagioli, dove c'è Giuliano Gemma, questa colonna sonora qua a me piaceva tantissimo quando ero piccolo, talmente tanto che adesso dirò una cosa che farà morire dal ridere Davide, che me la rimenerà per almeno 200 anni. Il mio primo videogioco fatto su Sinclair ZX Spectrum feci la colonna sonora di Anche gli angeli mangiano fagioli con Crunch. Certo, associare lo ZX Spectrum alla colonna sonora già di per sé è un ossimoro, però insomma, eppure se andate a vedere Crunch, il mio primo videogioco dell'86, ti crediamo sulla parola, lo troviamo, esatto. Lo troviamo su YouTube un gameplay. Sì, lo trovi. C'è uno spagnolo che non so come mai, ma si però pure dei seri rischi che si danneggi il computer, per cui evita. Ecco, lo sapevo io che iniziava. Evita Simone. Anche le vibrazioni de casa, anche, no? Da un po' fastidio. Sì, esatto, bisogna stare attenti. Tipo le cicale che cantano, la stessa cosa. Comunque è il film, quello lì con Giuliano Gemma, però sarà stato della struttura tutto uguale, eccetera, però aveva sempre il sapore di manca qualcosa, lasciava un gusto non proprio soddisfacente. Posso dirlo, tanto non c'è nel documento, addirittura ci furono dei sosia, degli emuli. Sì. Quella è una roba orribile. Ne avevamo già parlato. Orripilante, sì, dai. Sì, come si chiamavano? Ma lascia perdere. Facciamo finta che non siano mai esistiti. Esatto. Ne avevo parlato, non so, forse qualcosa del cinema, in un episodio del cinema che c'erano questi emulatori. Ma non è emulatori, era semplicemente un tentativo di continuare a replicare una cosa, certo, che funzionava, e magari loro non lo facevano più o avevano deciso di non farlo più per chissà quale ragione, e hanno provato a replicare, tant'è che secondo me qualcuno si è anche confuso poi successivamente, oppure sai, cominciano a scena di vedi quelli, i copioni, quelli che copiavano, no? Era un po' come quando è uscito Gig sulle reti Mediaset, dicevi vedi stanno a copiare la Rai. La stessa cosa, capito? Cioè, nel senso, alla fine il principio più o meno è quello. Esatto. Non parliamo di emulazioni e seguiti, perché poi andiamo nell'argomento di quello moderno che lasciamo perdere. No, no, meglio... ma dopo ci facciamo una chiusura, perché comunque. Sì. Io una cosa. È anche una preghiera. Io ce l'ho qua. Esatto. Io ce l'ho qua. C'è la campagna di Runtime boicotta il film che. Esatto. Diventerà ufficiale, insomma. Prego, prego, Roberto. Scusa. E quindi ancora nel 73, e agevoliamo anche qui in sottofondo se riesci la colonna sonora, che è in tedesco, quindi ma si capisce, è Piedone è un'altra serie che farà Bud Spencer da solo, in questo caso non doppiato, in questo caso, ma che sarà Patrus in Africa, esatto, ok, metti quello, va bene, okay. E Piedone lo sbirro, Piedone l'africano, Piedone l'africano, sì, non pensavo che Piedone lo sbirro fosse così vecchio. Piedone lo sbirro è il primo della serie, sì, e fu in questo momento in cui si presero questa prima pausa. Mentre quindi vabbè, il spettore napoletano Sì, ma Piedone dello Sbirro è del 73, non pensavo, non me lo ricordavo così vecchio, poi 73, 75, 78, 80. Ma non è il film che è vecchio, Piedone. Sei tu che sei vecchio. Sì, beh, quello lo siamo tutti vecchi qua, Simo. Se no non stavamo parlando di queste cose. Cioè, eravamo bambini, bambini. Esatto. E comunque in particolare regia bello anche Steno, quello regia di Steno, questo di... regia di Steno, secondo me aveva anche delle trame insomma di, carine, che, quindi non era un film, era un film anche serio in alcuni punti, con chiaramente tutte le parti ironiche e le famose scazzottate dappertutto, quindi sia in Africa che immersi negli animali. Questa è un'altra cosa che vedremo spessissimo nei film di Bud Spencer e Terence Hill. Io sto con gli ippopotami, però era solo Bud Spencer. E in Giappone, a Napoli chiaramente. E nel frattempo, mentre Bud girava questo, Terence Hill era negli Stati Uniti, ricordo che sua moglie era americana appunto, e poi lo chiamarono il Magnifico, sempre diretto dal Clucker o Clusher, come accenti si pronuncia, di prima, e Il mio nome è nessuno, che era prodotto da Sergio Leone, che viene considerato l'ultimo western all'italiana, peraltro. Sì, però in Italia c'è anche da dire che Bud Spencer non fece soltanto film comici, perché lui era recitò anche in Quattro mosche di velluto grigio di Dario, esatto, Argento, per esempio. Ha fatto una parte in qua, assolutamente, in Quattro mosche di velluto grigio. Sì. Una cosa, e che poi non... anche un altro film, ce l'ho scritto, ah sì, Torino Nera, un altro film. Porca vero, sì. Dato che ho trovato anche questa, ma la metto, insomma. E sono tutte bellissime, cioè non c'è secondo me una canzone, una colonna sonora di Bud Spencer e Terence Hill che sia brutta. Ma diciamo che se proprio vogliamo fare un discorso di questo tipo, all'epoca era difficile che un'opera artistica, comunque anche come una colonna sonora, venisse fatta con superficialità. C'era sempre una grossa, sì, attenzione, e c'erano anche dei grandi maestri. Sì. Tra l'altro io voglio ricordare, non c'entra assolutamente niente, e so che probabilmente ora non è più disponibile al cinema, ma probabilmente verrà riproposto su qualche piattaforma, insomma, di quelle solite, il documentario su Ennio Morricone, che è qualcosa di veramente clamoroso, perché non soltanto impari cose che tu non sapevi, e poi quando te le spiegano e le riascolti con la spiegazione, dici, cioè cazzo, cioè come ho potuto non capire che c'era la sua mano dietro a questa cosa qui. Ma parlo dalle canzonette fino a ovviamente le grandi colonne sonore, no? Perché veramente Ennio Morricone ha fatto veramente di tutto, ed è veramente un bellissimo documentario, bello, non è così caricato come i documentari magari che piacciono magari oggi molto, no? Che buttano tutto sull'emotional, e invece qui è abbastanza asciutto, anche se sono dei momenti chiaramente importanti, teneri. Però insomma diciamo che è un bel racconto, un racconto fatto completamente da lui praticamente, più ovviamente vari contributi. Se vi capita, guardatelo, perché merita veramente tanto. Il più grande di tutti, sì, assolutamente sì, anche se lui ammette a un certo punto, dice, non che gliene importasse particolarmente del premio dell'Academy, però aveva, a un certo punto lui aveva quasi capito che probabilmente non sarebbe mai arrivato sto premio dell'Oscar, e poi è arrivato, e lui si emozionò molto su questa cosa, perché tutto sommato era il coronamento anche morale, no? di una carriera importante. Importante è veramente dire poco, è maestosa. Io penso, guardate il documentario e ve renderete conto, ragazzi, poi vi verrà la voglia di vedere 100 film che avete visto e che è giusto rivedere, insomma. Comunque vabbè, dai, certo. Non volevo volevo dire una parentesi, ce n'è ancora tantissimo. Se mi metti, ovviamente adesso arriviamo, altrimenti ci arrabbiamo. Sì, mentre che la cerco, Davide voleva dire una cosa, però aspetta. No, volevo solo dire che la colonna sonora, che sono sicuramente molto belle, per noi sono forse più belle del dovuto a volte, perché comunque appena senti tre note ti viene in mente tutto un contorno, perché questo, come tutte le colonne sonore in generale, sì, dei film, perché la colonna sonora, essendo parte del film, appena senti la colonna sonora la mente va, arriva subito al film e pensa a momenti belli del film e tutto, quindi c'è un matrimonio tra queste due cose che danno un valore aggiunto sia al film quando senti la colonna sonora o la colonna sonora quando immagini il film, insomma è tutto un mix di sensazioni. Ma tu parli di Morricone, dici? Cioè relativa a Morricone? Ma parlo anche di queste canzoni, no, parlo in generale di colonne sonore dei film che per te sono molto importanti, ecco. Questo è vero, però io sono anche d'accordo con quello che ha detto prima Simone, che c'è stato tutto un periodo nel passato del cinema dove la cura della colonna sonora era sicuramente sempre ai massimi livelli. Si nota proprio invece anche un nei cartoni animati, se volete, in generale, in generale nel cinema. Ma sì, si nota un passaggio alla fine degli anni 90, credo, più o meno, quando si inizia a vedere anche che non, anche in produzioni magari rinomate non hai più questa cura nella colonna sonora, e a quel punto inizi quasi a diventa un tappeto a un certo punto la colonna sonora, mentre che all'epoca comunque la colonna sonora era un buon 20 se non 30% del film. Comunque, per tornare a Roberto, 1, 2, 3. Come with me for fun in my bucket. Come along, let's go for the hell of it. Beh, questo conferma quello che dice Davide, bastano tre note, davvero. L'abbiamo detto nel film. Sì, l'abbiamo detto mille volte. Quando la colonna sonora diventa in tre note, diventa l'icona del film stesso, no? Come Indiana Jones, come tante altre situazioni, no? E questi ragazzi, cioè, ma poi tra l'altro il concerto di Oliver Onion è stato spostato a maggio e io c'ho sto biglietto che freme ancora, e non vedo l'ora, veramente non vedo l'ora, ragazzi. Ma è a Roma? Uno a Milano e uno a Roma, mi sa. E questo film ebbe un successo incredibile, 6,4 miliardi fu visto più volte di colossal del periodo come Amarcord o La Stangata. Quindi sì, è del 74 questo film. Del 74. C'è anche da considerare un'altra cosa, che i film, e questo l'avevo detto di sfroso 5 minuti fa, cioè che i film di Bud Spencer e Terence Hill sono dei long seller, cioè non solo furono dei grandi successi al cinema quando uscirono, ma sono dei successi eterni ogni volta che vengono riproposti. Esatto. Perché fanno sempre audience, è incredibile, cioè non hanno mai smesso di fare audience questi film. Esatto. Al contrario di altri capolavori che dopo un po' non li guardano più. Invece e questo film aveva anche un famoso coro. Esatto, il famoso coro. Sì, adesso arriva anche il coro. Tra l'altro Michela mi ricorda giustamente che il concerto è stato spostato al 26 maggio a Roma al Sistina, quindi insomma, se avete l'opportunità, ragazzi, ecco, insomma, se ancora ci esistono i biglietti, perché noi abbiamo, come lo abbiamo saputo, chiaramente ce li siamo catturati. E poi vabbè, insomma, giustamente Roberto mi fa riferimento a un coro che però insomma penso che sia questo e che parte con una certa calma tutto sommato, perché ma questo vi ricordate un killer col violino? Esatto. Il violino di Paganini. Paganini. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Giusto. Che era un tizio che non dico che assomigliasse a Giuliano Gemma, ma era uno con gli occhi azzurrissimi, ricordava molto. Truccatissimo. Anche il direttore d'orchestra che spezza le bacchette, cioè davvero tutti i dettagli curati. Chi non ha cantato milioni di volte questo ritornello, questa cosa che ridondava in qualsiasi maniera? Gli Oliver Onion sostengono che c'è un brano, non so se è proprio questo, che dovettero incidere, lo pregarono milioni di volte per andare in studio a pregare, a cantare, e poi dopo ovviamente era difficile staccarlo, insomma, nel senso che poi alla fine l'esperienza comunque andare in studio a registrare, secondo me sta gente si è veramente, io dico, erano dei professionisti, lavoravano sicuramente con serietà, ma secondo me si sono anche divertiti, questo mi piace pensare questo, e anche se uno dice no, ma che dici, ma che, io penso questo. Sì. Vabbè, pensate a chi è venuto in mente di mettere questa scena in un film come quello, così come sarà venuto fuori, se è venuto per caso o era studiato, era sceneggiatura, ma i dettagli, il killer che gli sposta, quella donna delle pulizie che gli sposta il quadro quando lui vuole mettere il fucile, cioè la tizia che crede che gli stia facendo i gesti a lui lì, quella tizia con gli occhiali, cose davvero incredibili. Andiamo avanti. Nel 74 fecero il film Porgi l'altra guancia, comunque ebbe un buon successo, e dopo poco altri tre film, i due super piedi quasi piatti nel 77, Pari e dispari nel 78, Io sto con gli ippopotami nel 79. E sono, quindi sono film non western, quindi diciamo che per questo periodo hanno abbandonato lo stereotipo classico, ed è stata una scelta. Tutti i film internazionali che appunto erano pensati per essere venduti ovunque, ed è una cosa che è successa, ricordo, un grande successo anche nel Sud America, nei paesi dell'Est. Io ben ricordo di questi film, nonostante non c'entrassero niente con il western, mi sono piaciuti tantissimo anche questi. Assolutamente, non c'è dubbio. Anni 80 continua il successo della nostra coppia, e nell'81, qui dovremmo avere il contributo, che si chiama Moving In, I think, penso, ed è Chi trova un amico trova un tesoro, che è, penso ricordate, a me piace tantissimo, e Bud Spencer che solo parte, Puffin ti darà, esatto, forza, grinta, volontà, che parte sulla barca, che c'ha il clandestino Terence Hill, che prima è un clandestino, però poi si butta in mare, viene recuperato e diventa un naufrago. Sì, sì, è un film mitico, che poi vanno sull'isola e trovano il giapponese che sì, che non sapeva che era finita la guerra. Che era finita la guerra, esatto. E Anulu. Il figlio scemo della regina lì. Poi è pure un bel reghetto questo, eh? Esatto. Che andava tanto in quegli anni. Sì, sì, sì. Comunque era troppo bello. Solo Puffin ti darà forza, grinta, volontà. Esatto, la marmellata che poi li butta in mare appena gli altri non lo guardano. Sì, esatto. Sì, cucina come al solito la fagioli. I fagioli, come ha fatto dappertutto. La scena dei fagioli più volte l'ha raccontato Terence Hill. Sì, anche perché la scena dei fagioli è, cioè, molti dicono quella, i fagioli di Bud Spencer, i fagioli erano di Terence Hill, cioè Terence Hill che si sfonda, sì, sì, per la prima volta. Si sfonda i fagioli. Sì. Fagioli. Cioè, Bud Spencer li cucinava e Terence Hill li mangiava e lui, sì, si incazzava perché glieli mangiava Terence Hill. Era la famosa scena di lo chiamavano Trinità. Sì, e racconta Terence Hill più volte, ha raccontato che per girare bene quella scena di essere affamato di fagioli, tipo non restò a digiuno un giorno e mezzo per arrivare la scena affamato, in modo, sì, da veramente affondare. Ma lui mangia, la bellezza di quella scena è il fatto che cioè il modo in cui li mangia i fagioli, li mangia, a parte quando lui versa il vino, no? Che ovviamente lì è tutto un effetto, no? Cioè, nel senso, comunque era sicuramente bucato il però, cioè, nel senso, lui quando mangia quei fagioli si sporca tutto col pane, cioè, è una goduria solo a guardarlo, ma poi è bellissimo, gli fa venire voglia di mangiarli, sì, sì, proprio. E quando arriva il tizio che gli mette i fagioli sul piatto, lui gli gira il piatto, gli prende la padella, gli dice sì, sì, poi lascia qua. Troppo bella. Sì, è la stessa scena in parte con Trinità, e poi lo rifarà ancora appunto, sì, nel, sì, ristorante rinomato. Sì, sì, no, beh, poi ci sono certe scene che hanno sempre ripetuto, quelle dei fagioli, del mangiare in generale, e poi il pugno a martello di Bud Spencer, certo, che si inventa, vabbè, quel film, vabbè, poi, vabbè, ah, quindi, ah, sì. diventa il marchio di fabbrica, insomma, il piccione, come l'hanno esatto. Dopo di questo, quindi, dopo Chi trova un amico trova un tesoro, ci sarà Nati con la camicia, Non c'è due senza quattro e Miami Super Cups dall'83 all'85. Miami Super Cups, anche quello è fantastico. Quello era figo, quello me lo ricordo, sì. Sì, quello che loro praticamente erano due criminali che alla fine diventano poliziotti per caso. Per errore. Sì, sono troppo sfigati, vanno a rapinare la centrale di polizia praticamente. Che poi alla fine arrestano tutto un dei gangster che facciano i top poliziotti del esatto. Ma anche Nati con la camicia, se lo ricordate, sono due piccoli criminali che per errore sostituiscono due agenti segreti. Sì, è vero, anche e gli rifilano la valigia e tutto il resto, quindi. Mentre Chi trova un amico trova il tesoro era quello lì sulla barca, e quello era quello invece, sì. Quello dove loro erano due finti preti che arrivavano nella giungla, che poi organizzavano il trasporto di bibite eccetera con l'aereo per i cercatori d'oro che vivono. Sì, quello era Flying Through quello di cui abbiamo messo la. Però mi ricordo più il titolo italiano, ormai li confondo, sono talmente tanti quelli che ho visto. Credo che sia Più forte ragazzi. Più forte ragazzi, bravissimo, Più forte ragazzi, era quello lì, sì. Che quel film lì è quello dove poi Bud Spencer prende la passione per il volo con l'aereo e poi dopo esatto. Prende il brevetto. Anche perché quasi si ammazza. Sì, perché vola, impara a volare guardando il pilota e a un certo punto prende e parte con l'aereo senza mai aver preso lezioni di volo. Si fa un giro e c'è il regista che stava morendo di infarto perché c'è il protagonista. C'è Michela che in chat dice una cosa interessante, perché secondo me è un po' lo spirito di questa cosa, perché lei dice anche i vicini di casa che li guardavano con noi in strada nel paesino dei nonni in estate, e tra l'altro in effetti è così, perché i film di Bud Spencer e Terence Hill erano i film che proiettavano di solito d'estate nei consorzi, quando si facevano le proiezioni estive, ed erano film che li guardavi, cioè quel tipo di film che guardarlo in compagnia arricchiva di più l'esperienza, perché si rideva insieme poi alla fine. È vero. Ed era forse questo il grande successo, perché era il film che guardavi con la nonna, con i genitori, con i cugini, ma tutti insomma, sì, con gli amici anche, cioè, sì. Tutti. Sì. È uno dei pochi film davvero che si vedeva dal nonno al nipote, sì, e ridevano tutti. È vero, ma magari succedeva dei pomeriggi che ti trovavi con gli amici eccetera a casa, giravi per caso, cosa facevano intero, a un certo punto partiva un film di Bud Spencer e Terence Hill, tutti a guardarlo. Può essere anche certo, perché sì. Negli anni 80 li avranno replicati credo 80 miliardi di volte, sì, nelle sì. Televisioni private varie. C'era su Rete 4 una settimana, cioè. Ma sì, sicuro. Io l'ha fatto per sempre. Ogni tanto c'era il film di Bud Spencer e Terence Hill da qualche parte, e quando c'era ti fermavi di solito a guardare. Sì, mi fermo ancora adesso. Però, sì, però c'è, come i film di Totò, facevano i film di Totò a un certo punto, d'estate li buttavano tutti i giorni, c'erano i film di Totò e più o meno insomma. Devo dire esatto. Una cosa, cioè ci sono ovviamente ragazze, donne che li guardano, però ho sempre trovato che erano film molto maschili, cioè il pubblico, eravamo più ragazzi comunque, sì, che guardavano, sì, film di Spencer e Terence Hill. Per esempio mia moglie sì, li guarda, ma non è che gli piacciono, anzi la cosa che è successa quando mi sono sposato è che a volte, mentre prima se c'era un film di Spencer nella tele mi fermavo, lo guardavo tutto, adesso se mi fermo poi mia moglie dice gira, esatto. Diciamo che all'epoca che fu era per tutti, bambini e bambine, e tutti lo guardavano. Oggi è tempo, complicato, certo, è vero. Solo più gli uomini sono rimasti affezionati a questa cosa, mentre le donne insomma sono andate avanti. Esatto. Questo è vero. In realtà ha ragione c'è Pietrone che dice che state mescolando. Non erano preti i due. Ah, vedi, ha ragione. Infatti, mi ricordavo, erano due film. Uno erano due finti preti, e l'altro invece quelli con l'aereo. Erano piloti d'aereo. Esatto, è vero. Porgi l'altra guancia, è vero, che è già vero. Anche il titolo suona di preti. Sì, lo so che Michela dissente, esatto. Ma Michela, so, cioè, è l'eccezione che conferma la regola. C'è sempre il più forte, ragazzi. Il film comincia con loro che devono fare un finto disastro aereo, se vi ricordate. Devono simularlo, però in realtà l'aereo davvero si rompe. Sì. E allora sì. Lui prima fa il figo, sì, poi si rende conto che sta precipitando davvero. E a terra con quel rottame, poi vanno a ringraziare quello che gli aveva dato l'aereo, che però non c'è, trovano i figli e di andare, insomma, tutto il film molto molto bello, molto divertente. Arriviamo verso la fine, nel 90 faranno un orrido film, Botte di Natale. Sì, che era una specie di omaggio a quello che avevano fatto, ma sono anziani ormai. Non lo ricordo nemmeno. Sì, io sì, me lo ricordo, ma non è. Io l'ultimo film di Bud Spencer che ricordo era quello che lui era l'alieno. Ci arriviamo. Sì. Quello però è da solo, e Bud Spencer sì, è da solo. Sì, da solo. Ci arriviamo. Quindi. Il dimenticabile Botte di Natale. Quindi i due si separeranno, dirà Terence Hill che la separazione non è dovuta ovviamente a alcun dissidio, semplicemente che non aveva più senso a un'età avanzata cercare di recitare le scene d'azione che erano quelle che insomma hanno caratterizzato. Resi famosi, certo, che poi hanno avuto comunque successo in maniera indipendente in televisione entrambi. Vabbè, sì. Terence Hill con Matteo lasciamo stare, esatto, però piace alle nonne, quindi va bene, insomma. Porca miseria, c'ha miliardi di audience ogni Bud Spencer ha fatto qualche serie TV. Sì, quello del poliziotto che ha detto prima, che mi sono confuso, che non era Piedone, perché Piedone era la serie di film, quella del poliziotto si chiamava in un altro modo che non mi ricordo. Io mi ricordo più. Che c'era quello che lui era l'investigatore dei Lloyds, se vi ricordate. Sì. Anche, e adesso la vado a ritrovare. Sì, era quello lì, si può guardare chiaramente. Era carino, nulla niente di che, sì, certo. Esatto. Vogliamo dire che soprattutto Bud Spencer comunque ha fatto altre cose. Beh, anche Terence Hill ne ha fatte tante. Sì, Terence Hill ne ha fatte tante, ma ne ha fatte di più Bud Spencer. È una delle famose che ha fatto, di cui abbiamo accennato, è quella in cui lui fa uno sceriffo, di cui abbiamo anche di questa un contributo. Esatto. Ah, è quella che diceva prima Simone. Sì. Quindi questa è un'altra serie dove c'è un ragazzo. Lo sceriffo extraterrestre, poco extra e molto qualcosa terrestre. Del genere. Sì. Esatto. Vai. O chissà perché capitano tutte a me. E praticamente lui si trova con questo ragazzino a dover girare per gli Stati Uniti, scappando, perché lui è un agente. Eccolo qua, si chiamava Detective Extra Large. Extra Large. Ah, sì, bravo, sì, ok. Che tristezza. Detective Extra Large. C'è il titolo, è una tristezza, proprio, sì. Comunque sì, me lo ricordo questa qua del lui che andava in giro con il ragazzino, perché lui era un alieno e lui non c'aveva le impronte digitali, mi ricordo, sta con era rimasto ed era inseguito dall'esercito americano come al solito, e aveva quel giocattolo che poteva fare cose strane. E bello, divertente, di nuovo, carino, leggero, sì, se carino. Vogliamo, niente di che, niente di che. Comunque, dei film in solitaria di Bud Spencer ce ne sono tanti belli. Io mi ricordo Banana Joe, che anche quello è un mito. Joe, Banana Joe, e anche qui possiamo agevolare, allora parliamo di Banana Joe. Questo è da solo lui, Banana Joe, esatto, era solo lui, un film. Lui amava molto la natura, come possiamo vedere in moltissimi film, gli animali, e quanto è bella sta canzone. Cantava lui, mi pare. Sì. Questa qui c'è nella edizione dell'ultimo disco degli Oliver Onion. Io la metto, mi commuovo, ragazzi. Cioè, a me questa canzone mi piace da morire. Chissà perché poi ovviamente si lega ovviamente ai ricordi della tua vita e quindi innesca un meccanismo biochimico di qualche genere. Esatto, è quello che dicevo prima. Sì. Allora, altri due film che sono praticamente identici con Bud Spencer sono Bulldozer bulldozer. Io sono stato nel ristorante dove si menano, che sta a Marina di Pisa, sì. Che è praticamente il mare di Pisa praticamente. E ci sono ancora, tu entri al ristorante, c'è tutta la parete con le foto del film. Te credo. Girato. Lasciamo qualche secondo. E qui io farei anche sentire, perché è la mia preferita in assoluto, quindi se dobbiamo pensare, lo mettiamo, Barba o capelli, che fa parte di nuovo. Allora, c'è quel film lì. Adesso lascia la canzone. Bella, bella, ragazzi, bella, beh, veramente bella. Quel film Bulldozer ha un solo, è bello, ma ha un solo difetto, quel film lì, che c'è dentro, come si chiama, quello dei gatti di Vicolo Miracoli. Ah, sì. Quello no, che Jerry Calà. Jerry Calà, ecco. No, a rivederlo oggi, non so quello... le scene quando c'è Jerry Calà, per il resto è ancora ragione, bello. Hai ragione. Ma all'epoca, non... all'epoca era famosissimo Jerry Calà, andava bene. Adesso ho capito, però Jerry Calà, a differenza di mai capito il successo di Jerry Calà, ragazzi, cioè, sì, anch'io, però diciamo che comunque Jerry Calà ha avuto il suo breve momento di successo che è iniziato e finito, e purtroppo qua rimane memorizzato nella pellicola, mentre invece Bud Spencer continuerà all'infinito ad essere quello che è. Esatto. Infatti è l'unica cosa che, ragazzi, Jerry Calà non è in Bulldozer. Sì, state facendo confusion. No, mi sa che era in Bomber, qualcosa del genere. Era in Bomber. Infatti mi ricordavo. Sì, sì. Però Bomber, se mi metti un attimo, ragazzi. Osvaldo. Adesso ti metto troppo. Osvaldo, Barbo Capelli, che è la mia scena preferita in assoluto di Bulldozer, probabilmente di tutto. Mi piace perché sei riservato. Beh, dottor, mi lasci qui. Aspetta, scusa, ho sbagliato. La musichetta sotto, poi, Barbo a capelli. Osvaldo. Che è un nuovo taglio? Dov'è? Non so di chi parli, non so chi è Osvaldo. Senti, amico, io sono un duro. E se credi di fare parlare me, sei cascato male. Barbo a capelli. Barba. Ah, ok. Apri quella porta, vai in fondo al corridoio, passi, gira a sinistra, la testa porta a destra. Mi piace perché sei riservato. Aspetta, mi lascia. Aspetta, continua. Mi metto giù, io soffro di vertigini. Perché lo lascia appeso? Grazie. Erano meglio le vertigini. Che poi parla toscano lui. Comunque, mi sembra sardo a me, però. Osvaldo, non so di che parli, non so chi è Osvaldo. Oh, ma ricominciamo. Sto cercando uno alto e grosso con un pugno molto forte. Senti, amico, io sono un duro. Sono un duro. E se credi di fare parlare me, sei cascato male. E questo è il mio biglietto da visita. Chiama i scanassoni come sempre. E questo è il mio. Lo chiamano Orso, ma il suo nome anagrafico è Alberto Sarticoli, nato Settimino, via Garibaldi 33, ed è ivi residente, più volte ripilato. Lavora saltuariamente come bannino allo stabilimento Miramare. Se vuole l'accompagno, dottore. Che se ci pensate, è Emiliano alla fine, cioè. Sì, è sempre Emiliano rivisto e corretto praticamente. Però fa sempre ridere, cioè è una cosa micidiale. E hai citato lì, sì, dove c'è Jerry Calà, quindi Bomber. Qui, con la colonna sonora sempre di Oliver Onion, che sarà la stessa con parole diverse, che verrà utilizzata, esatto, anche nel cartone animato, esatto, Galaxy Express 999. Galaxy Express. Sì, noi qui. Questa, come fantasy. Questa, esatto, come fantasy. Che poi è una cosa strana, sì. Perché non era nel spazio 1999. No, no, era Galaxy Express. È catturato quello del treno. Che poi fu strana sta cosa, no? Di riutilizzare un brano per un cartone animato. Insomma, una cosa abbastanza. Anche perché poi non è, sai, un brano che passa inosservato, no? Cioè, è una canzone che tu hai sentito milioni di volte, ogni volta quando la risentivi, ma io questa l'ho già sentita. E poi quando la riproponi, dice, ma non era quella del cartone animato, oppure ma non era quella del film? È la stessa cosa, perché a seconda di chi aveva sentito chi, dove e prima, quindi insomma. Fantasy! Che era Galaxy. E chiaramente. Vai, scusa. Bomber è identico a Bulldozer. Esatto. Infatti io li confondevo perché. Di... esatto. Sì, sì, sono due. Invece film. Di parlare chiaramente di football americano, si parla di pugilato, quindi pugilato. Gli sfigati che vincono, quello che è un po' mezzo corrotto, ma poi si ravvede. Il villa vicino alla base americana. Quindi si parla anche di. Hai detto pugilato, ma è venuta in mente la scena della palestra di Altrimenti ci arrabbiamo così subito. Vabbè, quella è una delle mitiche scene dove. Pensi che ha capito? C'era una sincronia di eventi che non finiva mai. E perché erano, per quanto insomma, fatti magari non con budget enorme tutto, però evidentemente chi li seguiva era molto professionale, perché non c'è niente di casuale in uno di quei film. Veramente ci sono tonnellate di battute da tutte le parti. La sceneggiatura era serrata, serrata, oserei dire. Serrata. Vabbè, ma comunque non è per continuare a fare quello che arriva da una certa età, guarda le cose in maniera diversa, però era un modo di scrivere e di fare cinema sicuramente diverso, anche nel cinema di intrattenimento, no? Di cassetta, non necessariamente. C'era più rispetto, sì. Ma no, c'era proprio più professionalità da un certo punto di vista, e quindi anche. E magari anche, come posso dire, si prendevano anche meno sul serio. Oggi la produzione, tutto nascosto, tutto, cioè tutti i soldoni, tutti i barricati. Oggi ha vinto Boris, come qualcuno ha vinto Boris. Ma io quando uscì Boris, che non lo conosceva praticamente nessuno, io dicevo, ragazzi, non c'è niente da ridere, le produzioni soprattutto quelle televisive in Italia sono così, e io l'ho visto direttamente, cioè ci sono stato con dentro, gli occhi di questa faccia, esatto, ci sono stato dentro quell'ambiente, quindi lo so perfettamente che, cioè, alla fine ci faceva ridere, sì, ma cazzo, cioè, è un dramma tutto sommato. Perché esatto. Da un certo punto di vista, e quel cinema, secondo me, ancora fatto da grandi, grandi autori, grandi maestri, anche nelle scritture, anche tanti, io direi anche grandi artigiani dell'epoca. Grandi artigiani. Mi credo che stavo pensando la stessa cosa. Mi grandi artigiani, grandi, esatto. Artigiani. Lo so, ma il cinema era artigianale ancora, però cioè, sì. Nonostante c'era gente che conosceva la grammatica cinematografica, conosceva il modo in cui si costruivano determinate scene, erano creativi, no? Nel modo proprio anche in cui riuscivano a mettere in pellicola comunque cose che oggi probabilmente non sarebbero neanche riportabili, ma non perché debbano, nel senso non è così necessario, però insomma sicuramente se tu vedi una produzione, noi oggi ci guardiamo una serie TV o un film e tante volte insomma strusciamo un po' la bocca perché manca qualcosa, no? E manca secondo me quella profondità, ecco, quella profondità che c'era nel scrivere un qualcosa anche come posso dire divertente, leggero, quindi neanche a dire un messaggio così profondo, che però andava, cioè doveva essere scritto comunque, bisognava saperlo scrivere comunque, come i film d'avventura, no? I film d'avventura degli anni 80, perché ancora oggi sono delle icone perché erano scritti con dei crismi e con un ritmo, con una tecnica che oggi non esiste più, insomma questo dirlo. Vai Roberto. Allora io vorrei concludere la mia parte, poi magari facciamo qualche commento insieme. Sì. Beh, c'è anche da parlare un pochino estratti. Anche di Terence, perché abbiamo parlato ovviamente. Okay. Ma sai, secondo me Bud si presta di più con due piccoli estratti cantati da Bud Spencer. Il primo è sempre Bulldozer, si chiama Bulldozer El Indio Chaparral. Sì. Sì, aspetta. Tu parla intanto, E quindi ancora Bulldozer, lui si produce appunto in questa bella canzone che mi piace, mentre è insieme con tutta la squadra. La pelota che no, a che jugamo nosotros, son pelota che no. Ben te lo dijo, me lo dijo tal. Indio Chaparral, nosotros jugamos con la pelota oval, y a mí me lo dijo el Indio Chaparral, el Indio Chaparral, el Indio Chaparral. Chaparral è bravo. Io voglio dire una cosa proprio, e questo secondo me è l'esempio lampante di quello che stavamo dicendo prima. Cioè, quando tu vai sul set e parte il chuck, no, parte motore, chuck, azione, tutto diventa serio, diventa organizzato, diventa preciso. Ma quando c'è la costruzione di un qualcosa come questo, con sti suoni, sti acuti, cioè lì c'è il divertimento di gente che sta costruendo qualcosa che deve far divertire, perché se non ti diverti mentre che lo pensi, come può essere divertente per le persone che lo guardano, no? Cioè, e questo è un po' secondo me il sunto di tutto sto lavoro. Esatto. Questa è un po' la mia impressione, poi magari è vero. Infine, e poi magari appunto sentiamo altre cose, un film un po' diverso, magari se metti Ettore. Sì, lo metto. Però purtroppo questi brani sono bassi, quindi li devo livellare in temporale. Vai. Che riguarda la disfida di Ettore Fieramosca, cioè di Barletta, di Ettore Fieramosca. Sì, sì, sì. Più fame che gloria questa guerra ci dà. Oh, Ettore. Questo è meno noto, questo film, perché però merita. Oh, Ettore, con quelli si magna e poi l'Italia non c'è. Oh, Ettore, non c'è, ahimè, non c'è, è ancora a pezzi, non so perché. Marcia, marcia, marcia, si va a Barletta la sfida. Questo anche per dire che non è che sono solo sempre solo cazzotti e risate, insomma, cioè nel senso, sì, no, nel senso, però magari anche esplorare, che poi tra l'altro proprio parlando del fatto che un giorno parleremo di Paolo Villaggio, mi viene in mente il fatto che nella sua comicità, no, nel suo essere anche autore da un certo punto di vista, ha fatto anche qualcosa di drammatico, no? Cioè, nel senso, quindi alla fine esulare, diciamo, sperimentare, conoscere, fare cose diverse, insomma, con una persona così eclettica come lui, quindi alla fine, insomma, può essere interessante. Comunque, non è stato facile, assolutamente sì. Mi limito a citare qualche film e poi lascio la parola agli altri, di Terence Hill, perché non ce lo siamo dimenticato. Mister Miliardo. Sì. È bello, è meno noto, ma a me piaceva molto. Lui è un ereditiere, tra virgolette, che deve fare un viaggio, deve sopravvivere perché lo vogliono uccidere per non farlo arrivare in tempo a firmare la solita cosa dell'eredità. È un film piacevole. Poliziotto Super Più. Quello è fantastico. L'ho visto 40 volte quel film. Davvero divertente, davvero molto, divertente. Molto divertente. Oltretutto, quella è una coproduzione italo-americana. Infatti, ci sono molti attori americani anche dentro, famosi, oltre a Terence Hill. caratteristi americani, insomma, oltre sì, l'altro poliziotto, adesso sì, mi sfugge sì, il nome, sì. Il suo partner è un famoso attore americano. Esatto. E altri che ha fatto più avanti, Renegade, Un osso sì, troppo duro, esatto. O Lucky Luke, diciamo. No, Lucky Luke è quello meno un po' meno riusciti, diciamo. Renegade l'aveva fatto col suo figlio. Esatto, sì. Infatti lì poi c'è il problema, perché Terence Hill, secondo me, lì stava facendo una carriera tipo anche lui, tipo quella di Bud Spencer, cioè oltre a fare i film insieme, tutte e due poi facevano film di successo da soli, perché Poliziotto Super più aveva avuto un grandissimo successo e anche altri. Poi dopo lì però gli succede la morte del figlio e lui praticamente scompare per tutti gli anni 90, perché praticamente ha questa depressione per la morte del figlio, anche giustificata, per strada giustificata, come dire, comprensibile da un certo punto di vista, certo. Sì. È per questo che alla fine ci sono meno film con Terence Hill da solo rispetto a quanti ne ha fatti Bud Spencer. Eppure io vi riporto una mia sensazione tipicamente fanciullesca, diciamo, proprio di quando ero bambino, perché pur avendo seguito loro, cioè per me Bud Spencer e Terence Hill erano come una solita dei zii, no? Cioè, esatto. Quando io li vedevo separati era una sofferenza per me, perché ci stavo male, veramente. Perché dicevo, erano come due parenti che tu vuoi bene a tutte e due e che avevano litigato, e quindi dovevi vedere o uno o l'altro, no? In qualche maniera. Cioè, avevo mi lasciava questa sensazione a me. Poi chiaramente è ovvio che quando cresci capisci che uno nella carriera vuole esplorare anche altri percorsi, anche darsi delle alternative, non fossilizzarsi sempre su un certo tipo di meccanismo. Però veramente io avevo questa sensazione, ed è per questo che quando penso ai film, come anche detto Roberto, anche bei film fatti magari da loro separatamente, io però poi comunque mi rimane dentro questa sensazione che c'era qualcosa di sbagliato in questa cosa, no? Perché tu la vedevi col vincolo di un bambino che comunque si affezionava, no? In qualche maniera a determinati personaggi, no? È come quando per me è morto, quando è morto Corrado, per fare un discorso della televisione. Per me era morto mio zio, cioè nel senso è stato una sofferenza. Perché è stato in casa, è come sì, manco neanche con troppo seriosamente, no? Era comunque una persona che comunque portava l'allegria, no? In qualche maniera. È la stessa cosa Bud Spencer e Terence Hill, quindi alla fine era come spezzare una magia, e quando li vedevo separati questa cosa mi faceva soffrire, insomma, per quanto stupido possa sembrare, è una cosa che condivido perché comunque è una sensazione che ho provato, no? Poi oggi chiaramente li vedi con il senno del poi. Tra l'altro non l'avevo preparato, ma poi questa sera mi sono dimenticato, perché il discorso che ha fatto Terence Hill, giustamente io li chiamo con i loro nomi, quelli veri per me sono questi Mario Girotti. Chi è Mario Girotti? No, infatti, esatto, il discorso che ha fatto Terence Hill al funerale di Bud Spencer, tra l'altro è stato commovente, anche perché secondo me anche magari che non si vedevano tanto più spesso, che comunque secondo me sì, no, ma loro l'hanno sempre detto che sono sempre rimasti amici, c'era un legame incredibile, secondo me lui insomma l'ha accusata tanto pure questa cosa, perché no, quando due persone lavorano per decenni assieme con grandissimo successo non possono, cioè a meno che non si scazzano fra di loro è difficilissimo che possano. Loro hanno fatto 20 anni di carriera insieme, tutti gli anni 70 e tutti gli anni 80. Beh, guarda che però allora, e poi dopo gli anni 90 nel loro caso Terence Hill non ha più fatto niente fino al 2000. Nel loro caso è così ed è vero, si stimavano tantissimo. Ci sono altri casi non così isolati in cui alla fine gli attori che per qualche motivo devono recitare insieme finiscono con l'odiarsi. C'è anche un bellissimo film di cui non ricordo assolutamente il nome, che racconta di due comici che avevano un successo favoloso insieme, un film americano, poi però non riescono più nemmeno a vedersi, e i produttori volevano insistere per fare un revival di loro insieme, ma succede un disastro assoluto. Quindi, ci sono casi e casi, però casi, per esempio casi. Io invece mi ricordo, ho visto il film della storia di Olive Hardy e anche loro erano amicissimi, cioè sì, sono rimasti amici fino alla morte praticamente, quindi ci sono casi e casi. Bud Spencer e Terenzino hanno tra l'altro, fatto tra l'altro anche quello che è il filmone, ragazzi, se vi capita molto bello il biofilm, veramente. Secondo me, allora, io quando sono uscito dal cinema ho avuto la sensazione di aver visto un film d'amore, cioè piuttosto che, perché secondo me era una storia d'amore quella, cioè non amore omosessuale, ma proprio un amore inteso proprio tra due persone. C'è il tradimento, cioè, ragazzi, c'è sentimento, c'è forse il più grave, no, dei dolori che può provocare l'amore, che è proprio il tradimento, cioè all'interno di una storia d'amore che è durata tantissimo. È veramente un filmone pure quello, veramente. Non so quanto sia fedele alla storia originale, che purtroppo non conosco. Vabbè, sì, sicuramente ci saranno delle è un film, quindi un po' di storia ce l'ha messa, però diciamo che alla fine la storia è quella più o meno, quindi sicuramente erano si sono sempre cercati fino agli ultimi anni, ecco, anche dopo le discussioni che hanno avuto. E comunque quello che volevo dire su Terence Hill era che, cioè, il fatto che lui sparì negli anni 90 per quella tragedia ha portato a questo fatto che trovi meno film su di lui, che però poi dopo lui con non abbiamo citato il film dell'82, quello di Don Camillo dell'83. Don Camillo, sì. Che voi l'avete visto, immagino, tutti, il remake di Don Camillo di Terence Hill. No. Sì, no, ma non me lo ricordo. L'avrò visto, ma non me lo ricordo. Dell'83 io l'ho visto e devo dirvi che a me piacque molto all'epoca, e quando lo rifanno lo rivedo. È ovvio che i film di Don Camillo classici sono quelli degli anni 50, fatti ovviamente da Fernardel e Gino Cervi. Però tra tutti i remake, questo che fece nell'83 Terence Hill e Colin Beckley, che faceva Peppone, devo dire che è uno dei più riusciti sicuramente, è ancora godibile, è di sicuramente da lì che poi è nata l'idea di fare nel 2000 poi Don Matteo si rifà poi sicuramente, sì, al fatto che lui aveva interpretato Don Camillo nell'83. E vabbè, poi Don Matteo, piaccia o non piaccia, è andato avanti per 21 anni, dal 2000 al 2021, 21 anni, perché è diventato, era ancora giovane tra virgolette, comunque aveva una certa età, nel 2000 è arrivato fino al 2021, da quando aveva 50 anni a 70, o da 60 a 80, non so il conto esatto, però quanti anni ha adesso Terence? Adesso te lo dico subito. Ciao, lui è del 39, quindi fai due Madonna, conti. È 39. Vecchiotto, 83, quindi è partito a 63 anni. Esatto, a 63 è arrivato fino all'anno scorso, due anni fa, no, l'anno scorso. Comunque, vabbè, cioè, celebre la di Terence Hill è comunque la sua abilità sportiva, perché anche lui era molto sportivo, e forza nelle mani. La scena di quando lui spezza la mela a metà, l'avete vista qualche volta? Così, ma è un momento di stare. Cosa è partito? Bonjour, messieurs, si accomodi, vous avez trouvé le poste adatto, la vostra testa è sistemata. Non pratichiamo tutti i tagli, monsieur. No, beh, in realtà stavo a cercare i rumori delle scazzottate per fare così. Ok. E poi, vabbè, le scene di carte, quelle dove lui è famoso per fare tutte quelle scene. Sì, certo. E in realtà non le fa lui, ma le mani sono quelle di Tony Binarelli. Questa è una cosa, no, Tony Pinarelli che era il mago. Non è così strana sta cosa, nel senso che comunque poi alla fine quando sono inquadrato dei dettagli. Mentre la scena della pistola, quella è proprio lui, nel senso che imparò proprio a girare la pistola in quel modo lì col dito per farla ruotare, metterla nella fondina e tirarla fuori e ruotarla. Esatto. E infatti questa scena qui lui la imparò talmente bene che c'è una scena in Don Matteo, credo della prima stagione, in cui per caso lui si trova in mano una pistola e fa la gira, la mette via e la tira fuori. Una citazione, ovviamente. Sì, ne ho sentito parlare questa cosa, sì. Ma vogliamo anche fare una menzione di tutti quelli che li contornano, e molti poi si sono ripetuti per tanti film. Mi viene in mente Mescal, che era, sì, Remo Capitani. Sì, sì, che sono tanti attori che poi sono rimasti loro comprimari in tantissimi film. Insomma. Attori, stuntman, perché sì. In molti casi dovevano essere degli stuntman. E sono una parte integrante, insomma. Fuori calzoni. Ci ha levato la cinta. Quando gli dava le sberle sulle orecchie. E poi, raga, cioè, è una cosa che dà un fastidio. Cioè, mi hanno mai dato una pizza sull'orecchia? È una cosa proprio di un fastidioso incredibile. Vabbè, ragazzi, quando gliela dà con due mani si sente l'eco. Sì, no, ma celebri sono le scene di quando a un certo punto scompaiono in parecchi film, si menano, no? Poi a un certo punto scompaiono dalla scena. Tipo, entra in una stanza, entra in una capanna da qualche parte. E poi scrolla tutto, escono fuori tutti. E c'è l'esplosione. Esatto, tutti morti. Questa scena qui fa sempre morire da ridere. A noi maschi, a noi uomini. Ma no, non credo, solo le storie del cinema questa, perché l'abbiamo inventata proprio noi. Beh, vi ricordate, credo sia Nati con la camicia, quando vanno tutti e due a chiedere lavoro vicino al porto, e a tutti e due rifiutano e loro gli sfasciano la macchina al mafioso di turno e poi gliele mettono una sopra l'altra. Sì, certo. Sì, gli accade in due o tre step diversi. La prima volta gliela distruggono in un modo, la seconda in un'altra, e rimangono sempre fregati. Esatto. Oppure quando vogliono rubare il camion a Bud Spencer, quando gli rubano il camion e lui dice: era in pari e dispari che gli rubano il camion, giusto? Era in pari e dispari che gli rubano il camion. E lui dice: guarda, quando mi svegliano mi viene da piangere, quando mi viene da piangere divento nervoso, e quando divento nervoso... Vabbè. No, incredibile. Una battuta che uso spesso di Bud Spencer è nel film Chi trova un amico trova un tesoro, dove a un certo punto, quando si accorge di Terence Hill come clandestino nella barca, e a un certo punto lo insegue perché lo vuole menare, perché era rimasto della barca, insomma, e gli dice: ma perché mi vuoi picchiare, tu sei buono? E Bud Spencer risponde: non c'è cattivo più cattivo di un buono che diventa cattivo. Non c'è peggior cattivo di un buono che diventa cattivo. Sì, sì, anche questa è una frase storica questa. E direi di sì. Comunque, guardando, cioè, nel senso, in particolare Terence Hill, ma anche Bud Spencer, però in particolare Terence Hill, che fa forse le mosse più agili in generale. Cioè, comunque, questi erano gente che si teneva sempre molto in forma, tutto sommato, perché Terence Hill faceva ginnastica artistica, le parallele, faceva gli anelli, eccetera. Infatti aveva conservato questa forza molto forte nelle mani. È una cosa che diceva sempre, aveva una presa molto molto forte. Ma Spencer era fortissimo nonostante il peso, poi, nonostante il peso, in età avanzata, non so in quale film lui si tuffò in acqua per salvare due stunt che stavano affogando e li portò a riva tutti. Cioè, ha continuato a essere un ottimo nuotatore nonostante, insomma, la stazza non era più quella da giovane. Sì, è un po' come Giampiero Galeazzi, no? Che poi alla fine questi qua, lui faceva il canottiere, e alla fine quando tu smetti di fare quel, diventi un bonzo. Sì, ma in particolare gli sport che hanno a che fare con l'acqua, dove tu veramente spremi i muscoli in una determinata maniera, come fai una vita normale, poi veramente esplodi praticamente, insomma. Non vale per tutti, perché chiaramente chi si tiene, però comunque, io, cioè, aspetta, una cosa che devo levare perché guardo i video, esatto, e mi viene da ridere, cioè, nel senso, una cosa che si chiede spesso, si chiedono spesso magari chi guarda i film di Tim Spencer, sì, se loro effettivamente sono forti e agili come nei film, ed è effettivamente così, cioè veramente Terence Hill era molto agile, era un ginnasta, e veramente Bud Spencer era molto forte. Infatti in un'intervista, adesso non mi ricordo, forse da Fazio, se non mi ricordo male, una delle ultime che hanno fatto un po' di anni fa, c'era appunto Terence Hill che va e spezza in due una mela con le mani. Quando viene intervistato Bud Spencer, che gli appunto gli dice guarda che Terence Hill ha spezzato in due una mela, allora lui prende una mela e con una mano la disintegra, schiacciandola praticamente, la fa esplodere. Che è una cosa che io ci ho provato, ma è impossibile praticamente. Vincenzo ci chiede, Davide, tu che sport d'acqua hai fatto? Ho scritto adesso lavaggio dei piedi, esatto. o i gavettoni anche, se sì, anche quello è un altro sport che ho fatto, sì. Vabbè, ragazzi, e l'abbiamo anche ricordato in alcuni episodi dove erano dei gavettoni, no, forse l'abbiamo raccontato in un by night dove erano gavettoni un po' speciali, sì l'abbiamo raccontato in un runtime by night, esatto. Va bene ragazzi, io direi che facciamo un bel giro, magari un nostro pensiero, magari un sì, qualcosa che ci viene un po' anche dal ricordo, dal sentimento di aver visto, comunque vissuto questi due grandi personaggi che ci hanno veramente intrattenuto per più di 20 anni, cioè nel senso, è veramente di più, almeno il doppio, perché in realtà, cioè, alla fine ancora oggi io lo dico e non dico una cazzata, cioè, perché se mi capita, ma anche se mi viene la voglia, prendo e li riguardo e mi fa io guardo, adesso lo sta, cioè io guardo una scazzottata di Bud Spencer e Terence Hill e mi viene da ridere, raga, ma non è normale una cosa del genere, cioè. Sì, è normale, e la devi normale vedere tutta, la devi interrompere, vai Davide, è normalissimo, iniziamo, no, da Davide. Sì, io come già avevo forse detto, non mi ricordo se l'avevo detto di recente in qualche episodio, comunque questi film mi legano in qualche modo con un ricordo importante, che è quello di aver visto al cinema questi film sempre con mio padre. Con mio padre, come ho sempre detto più volte, non ho mai avuto una grande, avevamo un rapporto molto, molto distaccato, però ricordo che con lui ho visto tutti questi film qua, inclusi anche quelli di 007, vabbè, ma questa è un'altra parentesi, e andavamo al cinema e entravamo, ci divertivamo, uscivamo ridendo e passavamo una giornata assieme, e sono dei momenti che mi fanno ricordare mio padre in quelle poche occasioni in cui, diciamo, abbiamo passato dei momenti assieme, li ho passati insieme anche a Terence Hill e Bud Spencer e mio padre, che tra l'altro era un simile Bud Spencer mio padre, come aspetto, cioè ti dava gli schiaffi sulle orecchie. E a me anche un pochino, sì, però diciamo che come stazza lo ricordava. Poi sai, negli anni 80-70 il ceffone arrivava, adesso magari è un po' meno frequente, sì, però sì, è vero, assolutamente. Ma arrivava da tutti, anche da panettiere, dal vicino di casa, sì, da anche chiunque, da chi non avrebbe dovuto, sì, è vero, dal maestro. Sì, dal maestro, ogni tanto il ceffone arrivava, ecco, e niente, quindi ho questo ricordo importante che lega non solo la musica, non solo le immagini, non solo i personaggi che sono comunque i miei zii, ma anche il fatto che appunto li ho sempre vissuti un po' con mio padre, che in uno dei suoi pochi momenti in cui in qualche modo ci siamo avvicinati, ecco, mettiamola così, e quindi un legame molto importante. Ok Davide, no, è un bel ricordo quello di Davide, che però deve prendere l'aereo, si sente sta rullando sulla pista, quindi insomma sbrigati se non lo perdi. Ma no, perché che c'è? Le ventole di raffreddamento di Davide. No, avevamo visto che non erano le ventole. No, però adesso sono le due, fidate. Carlo, Beh, io, vabbè, Bud Spencer e Terence Hill sono praticamente la mia infanzia e la mia adolescenza in termini sicuramente cinematografici. Come dicevi tu, Simone, io anche io ogni volta che posso, che lo rivedo, un qualsiasi film mi fa sempre ridere e non riesco a smettere di vedere una scena loro se inizio a guardare una loro scena. Quindi anzi, stasera con tutto quello che abbiamo detto, quasi quasi tra un po' me ne metto su uno. Infatti. Non dava voglia di rivederlo. Non ho un ricordo così netto come Davide di vederli con qualcuno, perché li vedevo, non dico sempre, però in mille modi diversi. Quindi a casa, ecco, c'è una cosa da dire: forse la differenza di età che abbiamo, che è poca con Davide, però in qualche modo conta, perché per esempio io non mi ricordo di averne mai visto nessuno al cinema, se non in cinema d'essè o per qualche caso strano cinema al mare o cose di questo genere, ma non sono mai andato a vederli al cinema i film di Bud Spencer e Terence Hill. Li ho sempre visti in televisione, nelle TV private degli anni 70-80, soprattutto negli anni 80 principalmente, e milioni di volte, e poi sono film che ti fanno ridere, fanno compagnia, è bello vederli con gli amici e parlarne con gli amici. Cioè spesso quando uscivamo in compagnia succedeva qualcosa che ti ricordava una scena di Bud Spencer e Terence Hill, allora tutti a ripetere quella scena lì di Bud Spencer e Terence Hill del film particolare, o a ricordarla, o a fare le scene appunto di dire io non parlo, non dico niente. Io sono un duro. Sono un duro, non dico niente. Sì. Vabbè, comunque sicuramente un fondamento della nostra crescita, ecco, infanzia e adolescenza. Roberto? Allora, io ne ho visto qualcuno al cinema con mio nonno al mare, per cui è senz'altro anche un bel ricordo quello. E il ricordo che ho di loro è di un tipo di comicità che mi piace, che è fatto di sguardi. Adesso ho postato su dirette, guardate quando Bud Spencer picchia Mescal. Sì, cioè, è fatto di atteggiamenti, di sguardi, di movimenti, a volte di battute. Abbiamo visto prima Ruspa gallina ruspa e così via. È un tipo di comicità mai volgare, intelligente, completa, quindi l'attore in tutto, quindi nello sguardo, nei movimenti, ed è appunto la comicità come secondo me dovrebbe essere, leggera, e secondo me questo insieme di cose fa sì che noi possiamo rivedere un film di Bud Spencer e Terence Hill dopo 30 anni e ridere. E lo stesso lo fa, non so, un ragazzo piccolo o un anziano, uno che ha studiato di più, uno che ha studiato di meno. Perché? Perché sono un tipo di comicità che va probabilmente alla fonte, alla radice, non so se mi spiego, lo schiaffone, le cose. Mi viene in mente Charlie Chaplin, che non c'entra niente, però per spiegare questo genere di cose. E quindi loro erano bravi, poi certo erano di casa, quindi li viviamo quasi come fossero dei familiari. E credo che sia ancora vero, entro certi limiti chiaramente, se un ragazzo giovane vede i loro film, io credo che comunque lo faccia ridere ancora adesso. Questo è da sperimentare, sai, me lo sono sempre chiesto in realtà, tutto sommato, perché e sì, la comicità si basa su una cosa, cioè una cosa proprio semplice, proprio atavicamente semplice, perché alla fine lo schiaffone fa ride, no? Nel senso la persona che casca fa ride, cioè nel senso sono tutte cose che magari è l'estensione di quello che magari vedevi nelle comiche quando eri ragazzino, no? Cioè le persone che scivolano, cioè alla fine ci sono certi meccanismi che comunque ti fanno ridere, e messi e orchestrati e coreografati, ecco, perché questo forse è il termine più appropriato, in quei film che erano dei piccoli capolavori nella loro leggerezza, appunto. Secondo me rappresentano un unicum che oggi non avrebbe manco senso mettersi a riproporre, no? Questo sicuramente. Mi piacerebbe sapere sì, se un ragazzo di oggi guardato un film di Bud Spencer e Terence Hill possano ridere, ma io ho la sensazione di sì. E poi ecco quello che abbiamo detto tutti in questa sera qui è che erano un momento di unità all'interno delle, delle nostre famiglie, perché abbiamo sicuramente tutti quanti un ricordo con un parente, con un fratello, con un nonno, con una madre, con chiunque sia che abbiamo visto questi film e abbiamo sicuramente riso tutti quanti insieme. E mi ricordo, tra l'altro, io lo ricordo mia nonna, me la ricordo più importante, come ho detto, ma non per l'importanza della persona o del ricordo in sé, quanto del fatto che lei di solito non rideva e non gli piaceva neanche guardare i film a mia nonna, era un po' particolare, e però i film lei rideva, cioè rideva così con questi film, così come rideva mia madre. Poi mia madre rideva proprio in maniera di gusto e quindi ti coinvolgeva ancora di più, quindi si creava proprio questo meccanismo di guardare questi film tutti quanti insieme. E quando c'era il film Terence Hill stava tutti sul divano, cioè Terence Hill, Bud Spencer e via dicendo. Quindi ecco, diciamo, come abbiamo detto, entravano nelle nostre case, erano persone familiari, in qualche maniera erano divertenti, quindi in qualche maniera ci portavano anche il buon umore, era una miscela che non poteva non far nascere un amore, legate poi ovviamente per gran parte della loro carriera anche alle musiche degli Oliver Onion, che insomma secondo me sono un altro pezzo del nostro cuore in qualche maniera, perché anche loro ci hanno accompagnato in tante avventure, e quindi ecco perché sono veramente felice di andare a sto concerto il 26 maggio, che a Roma ricorderanno per altri motivi, però vabbè, non fa niente, questo insomma è un discorso sprettamente sportivo. ecco, veramente sono molto contento insomma di questa puntata, perché anche se magari non abbiamo detto niente di particolarmente clamoroso, anzi in realtà molte informazioni ha dato Roberto sono state interessanti, proprio perché molte non le conoscevo neanche. Però secondo me l'intenzione non è tanto di fare didattica, no, su questo tipo di discorso, quanto poi in realtà di rinverdire insieme a tutti quanti un ricordo che se, dai, non c'è niente da fare. Chi è nato nella nostra generazione mi viene a dire no, a me Bud Spencer e Terence Hill non mi frega niente, boh, non lo so, cioè, non tendo a non crederci, è quasi come voler dire ah vabbè, vuoi far bastian contrario insomma da parte. E questo è, invece io volevo, proprio perché siamo in tema ragazzi, aprire una campagna importante, insomma la apriamo ufficialmente. Siamo giunti al punto focale. Apriamo una campagna elettorale, no, una campagna diciamo di informazione. Esatto, denigratoria e di boicottaggio ufficiale di Runtime Radio. Runtimeradio.it è contro questa operazione che si sta per fare, che fa leva ovviamente su questa nostalgia, questo richiamo, questo voler ammiccare, questo dare uno style like, insomma, diciamo di un qualcosa che è stato un mito della nostra infanzia, che viene riproposto nella maniera più becera e brutta possibile, con una recitazione di merda, con una fotografia improponibile e proprio di merda, una recitazione di merda, proprio recitato di me, perché sul trailer, che è il succo che dovrebbe allettarti a farti andare al cinema a vedere un film, tu senti la gente recitare da cani, e a quel punto, cioè, capisci bene che non può essere, certo. non può essere il preludio di un disastro che, a prescindere, magari anche un film carino, ma merita di essere boicottato nel modo più assoluto. Quindi altrimenti ci arrabbiamo, è una porcata, anche se non l'abbiamo visto. Quindi il nostro chiariamo il remake di Altrimenti. Il remake, chiaramente, sì, scusa, hai ragione. Quindi Altrimenti ce l'abbiamo, che sta per uscire al cinema, non l'abbiamo visto, ma vi diamo il nostro giudizio che è una porcata, a prescindere. Quindi non ci andate, ragazzi, perché no? Non ci andate, e tutto quello che volevate investire nel vedere quel film datelo a Runtime Radio. Datelo a Runtime Radio, esatto. Oppure e andrà in mani più buone. Più buone. Ma datelo pure a, non so, su qualche strada malfamata. A un disgraziato. La circunvalazione, purché non vada a guardare quel, esatto, film. Esatto. Comprate il microfono a Davide Gatti piuttosto di andare a vedere. Ma vedendo comunque le reazioni in genere che stanno avendo dopo quel trailer non penso che andrà mai nessuno. Esatto. Ma ammesso che ci va qualcuno, quel qualcuno deve essere esortato a non farlo, perché okay, quanti soldi avete speso per fare quella porcata vi devono ritornare sul groppone, cioè li dovete pagare voi, tu produttore li devi ricacciare a uno pagando i debiti di questo film, perché veramente... Comunque a me basta sapere che c'è De Sica, per me è già un film che è no, anche se fosse stato il più bel film del mondo, se c'è De Sica no. Ma non è perché De Sica, che è un grandissimo artista, ma purtroppo nella vita ha dovuto fare le stronzate perché altrimenti non sarebbe mai emerso, che è un grandissimo cantante jazz, insomma abbiamo già parlato, ne abbiamo detto in diverse occasioni, c'ha questo problema che quando io vedo lui che dovrebbe essere il villain di questo film, io vedo Don Buro, quello che ti dice io beata l'ignoranza, si stai bene de mente, de corpo e de panza, cioè non, ragazzi non scherziamo. Ma poi perché la Don Buggy deve essere del padre, chi è fratello di chi, ma perché, ma per cosa, e soprattutto perché parlano il romanesco quando è un film che dovrebbe essere ambientato in America, cioè. Esatto. Vabbè. Che poi in realtà è in Sud America, sì, in Spagna forse, credo. In Argentina, quello che te pare. Comunque volevo solo dire una cosa, che prima cercavo di parlare ma ero mutato col microfono e quindi dicevo non mi cagano, invece ero io che ero mutato. Non ti cagano, no, non ti caghi da solo, ti boicotti. Esatto, si parlava del fatto che se un giovane d'oggi gli piacerebbe vedere questi film, volevo solo aggiungere che questi film, se ci pensate, non si vede mai un goccio di sangue, un occhio nero, e tutti si rialzano dopo e se ne vanno con una pacca sulla spalla. Sì, oggi ho l'impressione che i ragazzotti vogliono vedere il sangue, vogliono vedere il morto, vogliono vedere l'affettato della persona affettata in due, vogliono vedere il pugno che entra nella pancia e esce dalla schiena. No, ma per ridere no, dai. Quando c'è... Però vogliono vedere un po' più di realismo, probabilmente. Lo so, farò un test con mio figlio, vi saprò dire, dai. Allora, in effetti non ci ho mai provato, anche perché... No, per curiosità. C'è una cosa, sapete, ecco, una cosa che non avevo detto. Noi siamo cresciuti a film di Bud Spencer e Sill, abbiamo visti 40.000 volte. Però purtroppo negli ultimi anni c'è una tale offerta continua di serie TV, programmi, cose da vedere, eccetera, che non c'è più questo riciclo delle vecchie cose come c'era una volta. Cioè adesso è difficile andare a recuperare. Tanto, e forse materiale, anche è l'on demand anche che ti frega su questa cosa qua, c'è tutta la continua ricerca di produzioni nuove che continuano a uscire. Cioè diciamo che una volta negli anni 90 d'estate, in un pomeriggio che magari non era bel tempo, non sei uscito con i tuoi amici, non sapevi che fare, accendevi la televisione e ti beccavi il film di Bud Spencer. Oggi è più difficile, insomma, oggettivamente. E oggi quando dici cazzo, c'ho due minuti, devo recuperare quella serie TV che non ho visto. Esatto. Il Triple Traps è sempre così, Triple Traps, che è bellissimo. Comunque io c'è un suggerimento che mi danno, perché voi sapete che una volta soprattutto per eventi politici, no, proteste, scioperi, si facevano i famigerati picchetti, no? Cioè dove gli operai si mettevano alle porte della fabbrica e l'operaio che voleva entrare gli emenavano, no? Cioè non lo facevano entrare. Noi dobbiamo fare con questo film, quindi con Altrimenti ci arrabbiamo, il remake, dobbiamo fare un'operazione del contrario, cioè noi li facciamo entrare se la gente entra, ma quando escono li piamo a sganassoni, li meniamo. Esatto, cioè proprio tipo Bud Spencer e Terence Hill, vedo con le mani sull'orecchio oppure il cazzottone dall'alto, queste cose qui, perché ricordatevi che se lo viene a sapere che lo state andando a guardarvi, viene a dare un sacco di botte, ve lo dico subito, perché non si può fare. E comunque il nostro amico Vincenzo, che è il nuovo amico, insomma, che ci è venuto a trovare oggi nella chat, che dice di essere la spina gigantesca nel fianco di Davide, dice una cosa delicatissima, tra l'altro lo scrive in francese quindi cerco di tradurlo: De Sica può anche andare a schiacciare i ricci con il culo. Bellissimo, complimenti. Questo adesso giustamente dobbiamo mettere il disclaimer explicit solo per questa cosa qua, insomma. Esatto, va bene. No, vabbè, ma poi si è corretto, ha detto, perché ci possono essere i bambini bambini con il sedere. Con il sedere, hai ragione. Vince, ci sono dei bambini. Vabbè, ragazzi, vabbè, non pensi ai bambini, lasciamo perdere i bambini. Voi sapete, ho fatto una puntata di Buongiorno un cazzo tutta dedicata a sta cosa qua, perché i bambini, bambini. Vabbè, dai ragazzi, è stato figo. È sempre bello ricordare grandi personaggi. Questi per me sono stati eroi della mia infanzia, insomma, assolutamente bei momenti che ci piace assolutamente ricordare. Però, come tutte le cose belle, giustamente, a una certa è finita, insomma, e quindi ce ne andiamo a dormire. Vi ricordo che la prossima settimana, in teoria, se io e Carlo troviamo un po' di coordinamento, faremo una bella puntata sulla radio. Però, però attenzione, non sulla radio, solo sulla radio. È un discorso un po' più in generale, insomma, che partirà ovviamente da cose epiche e mitiche, ma insomma tratterà anche argomenti collaterali, perché parleremo sicuramente delle prime radio indipendenti, ma anche le prime radio pirata in Italia, che sono insomma una cosa importante. E poi parleremo anche di tutto quel fenomeno che negli anni Ottanta in particolare si era sviluppato, tutte le, insomma, le varie stazioni radioamatoriali, sì, esatto. Insomma, ci saranno varie cose di cui parleremo, insomma, e forse ci avremo anche un paio di ospiti. Mo vediamo un attimo, ci organizziamo. Sarà una partita un po', sì, una puntata un po' particolare. Detto questo, io vi ricordo www.lantemeradio.it, andate lì, trovate il pulsante anch'io, se volete fate una, contribuite con il pulsante anch'io, appunto, e scegliete quale metodo usare per dare un contributo a Runtime, se volete. Se non volete, ovviamente, potete tranquillamente non farlo, perché tanto Runtime, insomma, voi sapete, insomma, ci mettiamo tutte le nostre, la nostra energia, le nostre risorse, e quindi ogni tanto, se qualcuno vuole dare una mano, non è che ci fa proprio tanto schifo. E detto questo, anche cercate su Spreaker.com Runtime Radio e troverete tutti quanti i nostri podcast, che continuano a sfornare puntate e puntate, insomma, quindi alla fine escono anche cose nuove, arriveranno anche nuovi podcast, e voglia, tante cose importanti. Ma ricordatevi soprattutto, in particolare Davide, Roberto e Carlo con Archeologia Informatica, è uscito proprio recentemente un ultimo episodio sulla storia di MC Microcomputer. La prima rivista italiana di informatica, giusto? Sì, assolutamente sì, con l'intervista al suo fondatore Marco Marinacci, grazie ovviamente alla perseveranza del buon Roberto, che è andato a inseguirlo nell'internet fino a farlo venire da noi. Ha detto vabbè. Esatto, vabbè. E poi ricordiamo ovviamente che si spera presto usciranno nuovi contenuti sul canale video di Archeologia Informatica, che abbiamo una discreta serie di cose da pubblicare. Sì, ci siamo. Ci siamo. E anche sul podcast stiamo preparando qualcosa, appena anche una nuova, sta arrivando presto una nuova puntata, insomma. Adesso sono contento, perché sì, cioè la gente io poi non ho capito, ma perché mi scrivete? Scrivete a Carlo, se volete vi do la mail, così potete scrivere direttamente a lui. Ma perché non escono le puntate? Non mi scrivete a me, perché io non c'entro più niente, insomma. Al massimo edito. E ovviamente salutiamo anche Davide Gatti con il suo Survival Hiking, che, come abbiamo detto, ha superato i 10.000 iscritti, insomma, un traguardo importante, e tutto in un tempo, insomma, abbastanza relativamente compresso. E io lo tutto grazie alla nuova influencer del secolo, esatto, la gattina che col suo ditino magico ha fatto un macello. TikTok, è colpa di TikTok. Comunque eri quasi arrivato, cioè nel senso, solo accelerato, ha dato una botta finale. E canale sul quale io ho sempre creduto dall'inizio, lo dico proprio con convinzione, perché secondo me lui aveva le caratteristiche e le peculiarità per poter fare un qualcosa che avrebbe creato una sua nicchia. Infatti sono veramente contento di vedere questo risultato, e di vedere anche che si sta creando una comunità, che questa è un po' la cosa, comunità dalla quale io ovviamente alzo le mani, perché non capisco una sega di quello che dicono, però va benissimo e sono felice di questo. Detto questo, ragazzi, io direi che sia ora di andarcene a dormire. Grazie Roberto, grazie Carlo, grazie Davide, e chiudiamo grazie. Però se mi consente, prego, per chiudere, se mi consenti, una citazione di Terence Hill, di un buggy, appunto, altrimenti ci arrabbiamo. La festa è finita, capo. Passo e hai chiuso. Va bene. Bella. Sai, che mi, sai che mi è piaciuta? Bravo. Vedi? Quindi ripetila, che così facciamo l'effetto migliore. C'è un effetto migliore sulla motocicletta quando fanno la battaglia. Ricordate che c'è un microfono perché il capo, quello tedesco, voleva avere la radiocronaca di tutto. Terence Hill, che si frega la moto del tizio, dice: la festa è finita, capo. Passo e hai chiuso. Come with me for fun in my buggy. Come along, let's go for the hell of it. Starry night.